Allora, adesso io con grande gioia vi presento la bellezza delle poesie dei poeti del Trullo, questi poeti misteriosi letti da Andrea Rivera, attrice contro Gianni Palomba, Maurizione, Paolo Romano, Emilio Stella che non legge ma canta, intervallati dalle musiche degli Est, e comincia Gianni Palomba. Fa un bel respiro, t'hanno portata in comunità, poi t'hanno vista svirta, scappà, sei ritornata per strada a spaccià, occhio alle guardie, stanno arrivà, giri coatta, poco cordiale, stavi strafatta fuori al locale, t'hanno spaccato il setto nasale, occhio all'aspetto, sei a capitale, t'hanno piazzato dentro il potere, allontanato da ogni quartiere, senza sapere se avevi in parere. Occhio a chi zitto te versa da bere. T'hanno addobbato dei cartelloni, facce de vecchie zozzi, papponi, li tratti sempre come buffoni. Occhi ai politici, sono tutti coglioni. T'hanno portato a destra e a sinistra, ma viaggi da sola, senza un autista. A tutti gli hai dato sempre una pista. Occhio a chi vuole mettere in lista. T'hanno iniettato troppi segreti. T'hanno cosparso poi dei divieti, sei appartenuta a vati, a profeti. Fa un bel respiro, ci stanno i poeti. No, io sono molto felice di essere qui perché sono tanti anni che vivo a Roma, 15 anni, e sono proprio di Montesacro, un montesacrino adottato. E infatti quando mi hanno parlato di questa manifestazione ho detto magari, e l'abbiamo fatta e siamo qua, e quindi per me è una grande gioia. Poi mi hanno detto i poeti del Trullo in romanesco, ho detto magari mi fate leggere in romano pure a me. Ha detto no, Rivera, Palomba, tutti gli altri leggono in romano, tu leggi in italiano. E quindi ve tocca. Metro romantico. Vago, solo, per la strada. La parola è la mia spada. Il coraggio non è un nome, è uno slancio, un aquilone. È scavare fino in fondo, è uno sguardo verso il mondo, seme storto e disperato. Ma che se cresce toglie il fiato. Il coraggio è nell'azione, suona come una canzone. Lo spartito è un cassonetto, poco spazio eppure stretto. Se ci scrivo qualche verso, posso aprire un universo. E a chi legge e ancora sente e non resta indifferente. Vago, solo, per la strada. La parola è la mia spada. Metro romantico, er quercia. Buonasera, sono sempre quello di prima. Ma si può fare una cosa tipo un accompagnamento? No, perché sta poesia si chiama uno strumento, voglio dire. No? Dai. Vorrei avesse uno strumento per comprendere fino in fondo la follia del nostro tempo, tutto l'odio di sto mondo. Vorrei avesse uno strumento per dan senza sto rumore, che azzittisce pure il vento, ci atrofizza il cuore. Vorrei avesse uno strumento per far sciogliere i nodi in gola e addomesticare il tormento che ci spegne ogni parola. Vorrei avesse uno strumento per cambiare la sorte mia, ma c'ho solo un sentimento, carta, penna e una poesia. Buonasera, io ringrazio tutti quanti voi, i poeti del Trullo che sono fantastici, l'organizzazione del Life Fest. Je suis Maurizione. Eccolo il rapper. Bello incazzato. Tutto d'un pezzo, sempre impicciato. C'ha avuto un passato malato, drogato. E il fatto è che ormai sei stereotipato. Parli di sesso, droga, rapine. Te fai le pippette davanti alle veline. Tra casa e liceo, moine e manfrine, ti sarai calato un par d'aspirine. Ca droga pesante, te senti importante. Che dici cazzate, è un fatto lampante. Vuoi fare il furfante, ma resti un lattante. Se andiamo a vede, sei il più benestante. Eccolo, il rapper, dice che è pusher. Vuole fare il killer, scrive in un bunker. Vuole fare il leader, peggio di Hitler. Poi gioca a flipper, che ha baby sitter. Dice che spacci e te sei ta senti galla. Te metto da parte con corpo de spalla. Gira la voce da qui a Caracalla. Si vola una pizza, sei te il primo a pialla. Sei uguale a una cifra di rapper romani che fanno i ruffiani con gli americani. Puntate le mani contro il domani, ma non siete mai stati in mezzo ai cani. Le vostre cazzate sono già riciclate. Sparate, ringhiate, bruciate, dannate. Le vostre storiacce che ci raccontate l'avete abusate e ci fanno rate. Ai rapper che non si mettono in cima e che l'unima arma per loro è la rima, a voi non ve faccio il discorso di prima, ve la meritate sta rima d'estima. Sempre a cercare la meglio espressione, derime in capoccia piena alluvione. Scrivete perché c'è una vocazione, allora c'avete la mia ammirazione. Vi dico una cosa che non è segreta, una volta c'avevo il rap come meta. Mo che de rapper è pieno il pianeta, mi sento una scheggia a essere poeta. Er bestia. una volta. Una volta a Roma mia si campava con due spicci, si cantava in ogni via per dar sfogo agli capricci. Una volta a sta città non mancava mai il fiato, gli serviva per cantare storie e amori del passato. Una volta, in fondo al cuore dei poeti e borgatari, c'era il tipico rumore dei quartieri popolari. Una volta, io vi dico, nella nostra cittadina, il quartiere t'era amico da Testaccio a Tiburtina. Una volta c'era gente che ha polvere sulle dita e piagneva sorridente, sempre in lotta con la vita. Una volta, tempo addietro, questa società romana era chiara come vetro, forte come tramontana. Una volta, tempo fa, Arvara, Amici e Gabriella te facevano cascare tra le braccia di una stella. Una volta, a Roma mia, gli bastava solo il sole per essere piena di poesia, senza tutte ste parole. I nomi laconico. Buonasera. Ertevere. Ertevere si ingrossa e fa la voce grossa. So sudicio, inquinato, mi tuffo nel passato per non sentirmi stretto in questo cassonetto. Ertevere si incazza e vuole arrivare in piazza. Ormai non sento niente, so solo e indifferente. Lasciatemi affogare e morì nel grande mare. I nomi laconico. Stato della mente. A vedette tanto fiera non gliela faccio, non ragiono. Posso uscire con te una sera? Dai, e bestia, state buono. A vedette così tanta, me vi è voglia di toccarte. Con una donna così sfranta, le carezze non so adatte. A vedette poi de notte, sempre in mezzo ai mignotte, piagni lacrime interrotte quando prendono le botte. Ma a mattina te darei un bacetto lì, sul collo. Più vicino te starei. Cazzo bestia, sei a collo. Certe volte darsi mali, torni tardi, mezza sbronza. Lanci bace per viale, in realtà sei una crastronza. T'hanno reso un ferocita tra cantieri e ministeri. Sei nervosa, indispettita, sola, in cerca dei pensieri. T'ha assordato sto rumore, sei insensibile al dolore, e faresti un grosso errore se chiudessi al chiave il cuore. Te cerco e non te incontro, vivi dentro la testa, non c'è storia né confronto, solo te mi manni in bestia. Tu non sei di chi te vuole, di chi dice Roma è nostra, di chi te parla che le pistole e il disprezzo ti dimostra. Mi trasformi in animale quando fai l'indifferente, madre, amante o capitale. Sei uno stato della mente, erbestia. Ari Johnny Palomba. Fontana de Trevi. Tengo stretta a mano l'ultima moneta per provare a dare retta al destino profeta che dice col tempo ogni cosa s'avvera. Er tonto ci crede, o scettico, e ci spera. Parcheggio come viene per sbrigarmi, me giro un par de vie per presentarmi de fronte alla fontana che è de Trevi, che tiri una moneta, esprimi desideri, gli do le spalle sempre con rispetto, chiudo l'occhi, riempo d'aria al petto, poi lancio a caso senza via la mira l'ultimo euro spiccio, un c'ho una lira. Poi me in cammino e torno serio, ma s'avvererà mai sto desiderio? E mentre pio le chiavi nel giubbotto, ha visto il foglio bianco sul cruscotto, la rabbia scaturisce una risata e m'è costata cara sta stronzata. sto zitto e me subisco sta supposta, l'ennesima multa per divieto di sosta. Svenne, bimba mia, a quel corpo ancora acerbo, non gli doglie la magia, non lo rende già superbo. Non te svenne mai per noia, non te svenne per ambizione, fallo solo si c'hai voglia, si te chiamano emozione, perché l'era che ci avvolge è come un fiume prepotente, se non segui la corrente finirà che te travolge, perché l'era che ci avvolge è come un fiume inconsistente. Se sei pura, non può niente, l'innocenza lo travolge. Famo un bambino. Io ci ho provato con la mia ragazza. Senti, tesoro, famo un bambino. Lei si rigira con l'occhio da pazza. Ah, smetti di far sempre il cretino. E il fatto è che io dico sul serio, anche se so solo un ragazzo. Che dici, tesoro? O chiamiamo Valerio? Senti, Matteo, ma hai rotto il cazzo. Allora la pio, la bacio, l'abbraccio, gli stringo i fianchi e pure la mano, ma senza di te io come la faccio? Mi sa che sta a far troppo ruffiano, eh? Ci provo e ci riprovo, non mi rassegno. Siamo pure solo pischelli. Sai quante cose un giorno gli insegno? Sì, gli insegno a ballare e a farsi gli spinelli. Senti, mio amore, son padre perfetto. Sta un attimo ferma. E poi scoppia a ride. Te devi imparare a pulire il culetto. Incrocia le braccia e poi me sorride. Occhi nell'occhi, diventa più seria. Ma vedi che stiamo senza una lira? Per non parlare poi della cattiveria. Dentro a sto mondo pieno di ira. Ci penso un po' su, poi gli rispondo. Se qualcheduno gli può far male, gli pio la capoccia, poi gliela sfonno. Lo sai che so peggio di un animale. Senti, ma te, il punto è questo. Dovrai rinunciare a fumate e bevute. Poi sei disposto, risponde, ma onesto, a rimanere sveglio per intere nottate? Io ben fio so pronto a tutto. Dico con la voce più dolce che posso, anche se non ho fatta. E poi siete fregano. So come i politici. Pure se torna a casa distrutto, basta che lo vedo e già so commosso. Lei se raddrizza e tutta impettita, torni da dove che in lavoro non ce l'hai. Poi ci riflette, è un po' divertita. Guarda che infio, mica è un bonsai. Non basta guardarlo tutto commosso per farlo crescere sano e sicuro. Fa sti discorsi, poi in paradosso. Se ci riflettiamo, meglio il futuro? Sarà pure presto per fare una creatura, gli dico con tono forse orgoglioso. Un giorno vedrai che senza paura diventerò padre e sarò favoloso. Prima ma giusto un po' la capoccia. Trovo un lavoro serio e pulito. Poi sarò pronta a essere una roccia. De me sarai fiera, io t'ho avvertito, erbestia. Mi moglie. Mi marito. Quando era un pischelletto era bello come il sole, ma binghiava stretta al petto, mi embriagava de parole. Armati d'incoscienza, senza un'ombra de paura, ricoperti d'innocenza, ma gagliardi a dismisura. Ci sembrava che nel mondo ci amavamo noi soltanto, te voglio fino in fondo, de te sarò mai stanco. E infatti, me so accorta, stiamo insieme da una vita, e ve dico, mai una volta m'ha sorpreso con uscita, una serata, un concertino, una città da visitare, un bicchiere di buon vino, col tramonto, lungo il mare. Ormai siamo cambiati, con una certa noncuranza, se siamo un po' annoiati, a vantaggio della panza. Ma io sono sempre bella. La vita è una sola. C'ho un cuore da pischella che sogna, ancora vola. E stasera so 20 anni che se siamo fidanzati, che lavo e stiro panni, 20 anni innamorati. Stasera ho pio de petto, truccata e ben vestita. Andiamo a fan giretto, a moccia la partita. Love Block. L'amore quando arriva lo senti all'improvviso e tutto ciò che è intorno diventa secondario. A noi, a tutti noi, qualcuno ci ha diviso. Chi dovresti amare? Da sempre un avversario. L'amore quando arriva vive in un sorriso e poi fare l'amore diventa necessario. Ci stanno indebolendo e dico per inciso, muore la speranza ad ogni notiziario. Sfida il celerino ed offrigli un sorriso. Quel giorno avrai commesso un atto straordinario. Hai rotto un meccanismo che è stato già deciso. Se poi vorrai sentirti un po' più temerario, stendiamoci per terra. Tocchiamo il paradiso. Questo sarà il blocco più rivoluzionario. Marta del terzo lotto, dai. Thank you. La vita non è quell'incomprensione, quel litigio, quella distanza o quella serata in cui non volevi proprio mancare. La vita non è una scopata, un complimento, un buco nell'acqua, né quella figura di merda che hai fatto davanti a tutti. La vita non è qualcosa che si possiede. Ecco perché, se dopo molto tempo pensi a tutte queste cose, le vedi tanto piccole, quasi non le ricordi. La vita è il tuo migliore amico che capisce dai tuoi occhi che non te la stai passando alla grande e senza neanche una parola ti stringe forte. La vita è tua madre che tutte le sere ti pensa e ti regala una preghiera. Spera tu sia felice, che nessuno ti faccia del male e che tu non faccia del male a nessuno. Spera che tu possa essere meno inquieto e più spensierato. Chiede a Dio di andarsene solo dopo averti visto sistemato. Tu non credi in Dio, ma in questo caso è come se ci credessi. La vita è tuo padre vestito da lavoro, pieno di schizzi di calce, che ti aspetta fuori nel suo vecchio camion. È uscito prima di te per riscaldare il motore. La vita sono le scorze d'arancia che trovi sul sedile, se le dimentica sempre. La vita sono le sue rughe. È quell'espressione stanca ma felice, perché è lui ad accompagnare suo figlio alla stazione e dargli l'ultimo abbraccio. Tu gli dici di non lavorare troppo e chiudi lo sportello, poi ti giri, lo vedi andare via e pensi che parli poco con lui, pensi che ci sono ancora troppe cose che non conosce di te e che il tempo a tua disposizione per raccontargliele inizia a diminuire. La vita è quel pianto disperato lungo un'eternità ed esploso senza motivo. La vita sono i tuoi silenzi, i tuoi pensieri, le tue trasformazioni, le mille parti di te che si alternano, sovrappongono, uccidono. La vita sono le paure che non riesci a superare, le verità che non riesci ad accettare. La vita è quella volta che hai sentito di amare. Non ci credevi quando te lo raccontavano. Quella sensazione è nuova, arriva e tu capisci. Ecco perché, se dopo molto tempo pensi a tutte queste cose, le vedi tanto grandi, quasi ti viene da piangere. Vi ricordate i poeti del Trullo, no? Questi grandi poeti, i grandi poeti del Trullo. Ve la ricordate La Buona Compagnia? La Buona Compagnia è una poesia che si chiama La Buona Compagnia, per l'appunto, e che vi vado a leggere con il giusto sottofondo musicale. C'è sta un amico mio, cagliero de sempre il culo, lavora tutto il giorno e sgobba come un mulo, certe sere quando stacca si rinchiude in biblioteca, ma sta botta l'ho acchiappato, andiamo in discoteca. Ha fatto un po' de storie, ma alla fine si è convinto. Per stasera vieni con me, segui un po' l'istinto. Lo seguo io l'istinto, mi dice, va a casetta, c'è un libro, una tisana, calla calla che t'aspetta. Lo guardo per intero e poi gli scoppia a ride. E dai, su, far serio, la notte ci sorride, fa bene divertisse. Te sei visto un po' allo specchio? Vabbè che te conosco, ma vedete, pari invecchio. A sentì ste mie parole si convince e andiamo in centro. Arriviamo a sto locale e gli altri stanno dentro. Manco entriamo, già comincia. Che impostaccio, non mi piace, tutto buio, facce rosche, sto DJ non è capace. Senti, date pace, vuoi un drink? Te vado a prendere. Ritorno e me lo trovo ad angoletto il sessantenne. Insieme poi cercamo l'altri amici sciroccati, brindiamo alla salute e ai nostri giorni sgangherati. Poi lo pia da parte e io faccio un bel discorso. Amico, sta tranquillo, vieni qua, beviamo un sorso. Sta vita dura un soffio, te schiaffeggia, poi va via. Alla fine l'importante è la buona compagnia. Già al secondo giro stava un po' più rilassato, l'alcol nulla regge, è un fatto comprovato. Al terzo bicchierozzo si è alzato dal divano, pur io te voglio bene, e mi stringe forte la mano. Poi me lo so perso, chiedo in giro, quando è ito? Subito ho pensato, se n'è nato o se ha dormito? E invece mo ritrovo che ballava scordinato in mezzo a due pischelle, ubriaco e fomentato. Magnavo un panino d'estate all'ombra d'Empino, faccio il secondo boccone e arrivano quattro persone, quattro soggetti vestiti male, verso de me direzione frontale. Con tesserino poco credibile, parlano male, inglese incapibile. Non realizzavo che succedeva, cade il sudore, il cuore batteva. Vieni con noi, che ho fatto, non andiamo, che vuoi? Pensavo, questi mi stanno a rapì, già immaginava notizie RTG. Ero spaesato, incredulo, perso, pensavo davvero fosse uno scherzo. Me spigne forte e chiude lo sportello, de una macchina blu me sfugge il modello. Me fissa nell'occhi e ripete shut up, me toglie il telefono modello StarTAC. Cerco de scenne veloce ma invano, pia le manette e me tira una mano. Ferma de carmo sabbono, ho realizzato sti quattro chi sono. Le merde coi gesti da mille pretese, quattro bastardi vestiti in borghese. Strillavo che cazzo è successo, te già lo sai e non ce lo chiede. A 200 all'ora su una strada greca cercavo un motivo a mosca cieca, ma non sapevo qual era stato. Cazzo, perché mi avete arrestato? Ammanettato sembravo un bandito, stavo in maglietta, costume infradito, manco sapevo per quale sciagura dovevo trovarmi de botto in questura. Uno di stronzi me fa una perquisa, provavo disprezzo per quella divisa. Ero pulito, cazziato e innocente, temevo la sorte del delinquente. Scendendo le scale pensavo contento, è stato un controllo, giusto un momento, e invece me portano dentro una cella. E allora mo la storia si inizia a fa bella. Quattro persone brutte d'aspetto s'alzarono in piedi de corpo dal letto, occhi rossi, sguardi cattivi come dei cani, notagli incisivi. La guardia nemmeno li stava a sentì, me prende, me stringe e me dice stai qui. Io entro dentro, sti quattro se carmeno, pensavo balordi, mo sicuro me menano. Quattro arbanesi compagni de cella, cercavano solo de fa comunella. Uno de loro parlava italiano, mi chiede se vengo da molto lontano. Una sigaretta, l'ansia massale, ripenso che cazzo avrò fatto de male. E intanto passavano ore bollenti, lucchetto serrato, sbarre imponenti. Una sensazione che non so spiega, capivo il valore che c'ha la libertà. Dentro una cella sei un impotente, come spiegarglielo che sei un innocente? Nessuno te informa sui fatti accaduti, tenenti ignoranti che restano muti. Passate 8 ore, mi lasciano andare. Io chiedo perché ho dovuto aspettare. C'è stato uno scambio, un solo dettaglio. Non sei tu il colpevole, è stato uno sbaglio. Non mi uccise la prigione. Non mi uccise la prigione, ma due guardie carcerarie. Non spacciavo, mi drogavo e vivevo una caciara. Frequentavo spesso per certe che si trova a Pignattara. Ci provavo a uscirne fuori, che forse mie contrarie. Non mi uccise la prigione, ma due guardie sanguinarie. Che avrò fatto poi de male per finire dentro una bara? Chi lo dice a mia sorella che de tutto questa ignara? C'è qualcuno che dichiara so disgrazie necessarie. Non mi uccise la prigione, ma le botte straordinarie de due guardie che m'hanno messo in mezzo alla cagnara. Cazzo fate? Dico io. Porco Dio! Zitto! E impara! Non mi uccise la prigione, ma violenze immaginarie. Una sorte che con me si è mostrata troppo avara e la morte ha dimostrato di essere sporca, farsa e amara. Allora, questo è un racconto, è il mio preferito, è un viaggio, provate a seguirmi, io provo a farmi capire. Le pareti sono viscide, gommose, potrebbero essere viola, c'è poca luce. Paolo inizia a camminare, appoggia distinto le spalle alla parete e procede di lato. Poi sente la parete che si deforma, si rigonfia, spingendolo via. Ecco una testa, ecco un ginocchio. Corpi ansimanti premono dall'altra parte. Paolo si mette a correre. Finisce il corridoio e c'è la casa dei suoi genitori. Davanti al cancello c'è Paolo bambino. La casa dà su una stradina corta. All'inizio di questa stradina c'è la madre di Paolo con un uomo mai visto. Paolo bambino ride quando vede la mamma e corre verso di lei finché non sente la voce della madre, però questa volta dietro di lui. Allora si ferma, si gira e alla fine della stradina vede sempre la madre. Anche lei tende le braccia e anche lei con quell'uomo. Due scene identiche, una davanti e una dietro. Una vera e una falsa. Ora Paolo ricorda, è un sogno che faceva da bambino, quando sua madre è stata un mese in ospedale. Paolo bambino si trova in mezzo alle due donne. La prima grida disperata, mentre la seconda si fa ammaliante. Paolo corre verso la seconda e sbaglia. E la madre sbagliata. Il sogno svanisce. Paolo torna a guardare casa sua, ma non è più casa sua, è diventato un castello. E non è più giorno, ma è notte fonda. La luce rosa che scende dal cielo mostra a terra mucchi di uccelli morti. Paolo guarda in alto, migliaia di meduse rosa volano nel cielo. Intorno è tutto un labirinto intricato, sporco, surreale. Le pareti del labirinto sono irregolari, vanno in tutte le direzioni, creano strade senza uscita, ma anche nuovi spazi, nuove stanze. Sono pareti trasformiste, cambiano appena si gira l'angolo. Appartengono prima a un palazzo che dà su una piazza, poi a una camera da letto dove in corso un'orgia e una donna grassa invita Paolo a entrare. Ed ecco che diventano pareti inconsistenti, spaventose, incomprensibili. Stop! Dove sono? Dove sono finito? Ciao Paolo. Chi sei? Sono Paolo Nove Vite. Io sono Paolo Nove Vite. Chi sei tu? Perché dici di essere me? Paolo, tutto quello che c'è qui è Paolo Nove Vite. Io, tu, le pareti viscide di prima. Che significa che sono morto? È l'inferno. Non esiste un inferno come lo intendi tu, e nemmeno il paradiso. Ogni morto ha un posto suo. E questo sarebbe il posto mio? Questo è il tuo inconscio, Paolo. Chi muore finisce nel proprio inconscio. E tu chi sei? Perché dici di essere me? Perché sono te. Sono il tuo inconscio. Sono la voce che senti. Qui siamo tutti la stessa cosa. Alle orecchie di Paolo arrivano le urla di un gruppo di uomini, poi il rumore dei loro passi. Stanno correndo verso di lui, contro di lui. Sono i tifosi di calcio. Allora Paolo inizia a scappare, li sente sempre più vicino. Si chiede cosa vogliono da me. Eccoli, sono arrivati. Possono quasi toccarlo. Allora Paolo entra in una porticina sulla destra. È uno scantinato. Non sente più niente. Ed è strano che non l'abbiano seguito. L'hanno di certo visto entrare, ma il gruppo di tifosi è già lì nello scantinato, davanti ai suoi occhi. Circondano Paolo, tale e quale a lui in questo momento. L'hanno legato, gli sputano in faccia. Paolo urla basta, basta. Nessuno fiata, nessuno si gira. Quella che vede è una scena distaccata da lui, una proiezione. E nella proiezione c'è anche Paolo bambino, seduto su una cattedra, che guarda se stesso adulto, umiliato. E se la ride. Paolo non sostiene la risata di se stesso bambino, non riesce a sentirla. Esce dallo scantinato, è sconvolto. Dove sei? Dove sei? Ti voglio parlare, vieni! Resta calmo, ti servirà. Che cosa vuol dire tutto questo? Ma perché io? Qui c'è quello che pensi veramente e quello che non sapevi di pensare. Ci sono le tue paure, i tuoi desideri, i tuoi sogni. Ci sono cose che avevi nascosto troppo bene quando eri vivo. Qui non esistono nascondigli. Ah, non esistono nascondigli? Perché? Perché l'inconscio? Perché? Perché qui, dopo la morte? Perché questa è la verità. E non c'è niente di più giusto della verità. Non c'è punizione o premio migliore che vivere nel proprio inconscio. Non c'è niente di più fedele a se stessi. Paolo fa una smorfia di dolore, si mette a camminare lentamente mentre parole della voce rimbombano dentro di lui. Il labirinto adesso è una strada. È una strada di città e sulla strada di città c'è parecchia gente e tra tutta la gente ci sono tanti Paolo. Paolo con una donna che potrebbe essere sua moglie, Paolo anziano con un giornale in mano, Paolo bambino che tiene la mano della mamma, Paolo insieme a un gruppo di amici. Tutti, appena vedono il primo Paolo, cambiano espressione e ruggiscono e tornano all'espressione composta e più serena di prima. Allora Paolo entra in un tunnel. Sulla destra si ritrova in una caverna. Dalla lanterna buttata malamente a terra arriva un accenno di luce. Incatenata alla parete c'è una ragazza che piange e urla: Paolo, liberami, ti prego! Paolo cerca di avvicinarsi per aiutarla, ma incontra una barriera invisibile che lo separa dalla ragazza. Ci prova, ma niente, non può avvicinarsi. La ragazza urla: perché non mi aiuti? Perché non mi aiuti? È un lamento struggente. Paolo si butta contro la parete invisibile, ma tutto è inutile, è impotente. Comincia ad andare via e subito la voce di donna si rivolge al passato e grida: Paolo, perché non mi hai aiutato? Perché non mi hai aiutato? Allora Paolo corre verso l'uscita della caverna ed entra nella cucina dei suoi genitori. La madre sta preparando da mangiare, il padre legge il giornale e non gli parlano. Mamma, papà, perché non mi parlate? Perché ora sappiamo chi sei. Allora Paolo si alza di colpo e scappa ancora. La mia coscienza non può essere questo. Qui è tutto sporco, tutto scuro. La mia vita è piena d'amore. Amo la mia famiglia, amo i miei amici e loro amano me. Qui non ci sono le tue buone azioni o le parole che hai detto. Non c'è il conforto che hai dato. Non c'è niente dell'immagine che gli altri avevano di te. La tua vita esterna è stata messa in una scena creata dalla tua mente perché il tuo inconscio restasse inconscio e brulicasse per conto suo. Una messa in scena per non affrontare la verità. Capisci perché non conta quello che hai fatto? No, no, piange Paolo, piano piano, quasi in silenzio, prima in ginocchio, poi a terra, come un feto. Non sa cosa fare, non sa nemmeno se ciò che vede è un desiderio, una paura, un sogno, tutto è nebbia, tutto è melma. Si alza, si muove lentamente lungo il labirinto a testa bassa, cercando di calmarsi, di conservare un briciolo di lucidità. A terra ci sono colori spezzati, c'è un bambino che gli chiede: vuoi giocare con me? C'è la ciotola di un cane. Ma cosa ho fatto di male? Io voglio sapere che cosa ho fatto di male. Questa non è una punizione e non c'è colpa qui. L'inconscio non giudica. L'inconscio è. E allora perché tutti sono ostili? Perché mi sento sempre in pericolo? Il tuo inconscio ti ostile perché tu non l'accetti. Questo posto non cambierà perché sei tu. Tutto quello che puoi fare è conoscerti e imparare a vivere con te stesso. Ma queste cose le sai già tutte. E io come faccio a saperle? Perché le stai dicendo tu. Post mortem er quercia. Er funerale. Mentre che portavano la bara del sor Faustino, morto l'altro ieri, successe una scenetta alquanto amara, de quelle non consuete ai cimiteri. Quattro giovinotti, morto in spalla, salivano le scale della chiesa e mo mi viene da ridere a raccontarla. Ma molta gente ci è rimasta offesa. Tra fazzoletti, pianti e condoglianze, durante il trasporto dalla cassa ne sono svariate le testimonianze, sortito lo stupore della massa. Mentre salivano l'ultimo scalino, s'aprì de corpo al sotto della bara. La madre tappa l'occhio al ragazzino e il tonfo di tristezza al cuore spara. Allora Mario, serio, mi interrompe, domanda inarcando le sopracciglie: ma che è cascato il morto? E io da volpe rispondo: no, Sei retta le maniglie. Er Pinto. Bravo Pinto. Ora, io vi vorrei raccontare la storia che ho scritto io, faccio un fuori programma se ve va. Allora, questa è la storia della mia Roma attraverso tutti i quartieri di Roma. Un giorno, nei giardinetti, ho visto una donna Olimpia, con due boccea così. Ma quale quarta avrà avuto l'Ottavia? La classica romanina, mica la pisana, un po' borghesiana, ma molto garbatella. Avrà avuto circo massimo una ventina d'anni. Viveva in un casar monastero dentro una torre vecchia, una torraccia, in 100 celle. Le ho detto, ma che sei, una torbella monaca di clausura? Che prega San Giovanni e mangia ostienze. Se è così, oh, se è così io col latino, ma a cavo col latino. Così con la mia solita Fleming. Le ho detto, esci dal ghetto, non andrai certo all'infernetto. Oh, in un casal boccone, la rustica, non l'ho portuense su un Monteverde o su una montagnola, non mi fido dei monti. Ma nella prima valle che ho visto, in un casalotti dei 20 metri quadrato, praticamente un trullo, tra prati, sotto un alberone, in un pigneto, una pineta, sacchetti dappertutto. Non mi sono presa la storta. E in vigne nuove se siamo fatti un quarticciolo di vino. Infatti mi girava il testaccio. Mi è presa un torcervara, mi è preso. Corcolle, stavo a pezzi, corcolle. Mi sono dovuto mettere la maiana di lana. Mi sentivo un po' a tufello. Altro che giornata trionfale. Ho preso una bufalotta. Io che mi credevo re di Roma, pieno di medaglie d'oro, alla fine mi ha detto, se vuoi che ti apro le porte di Roma e ti faccio vedere la selva candida, la mia grotta perfetta. Ma che grotta rossa? Sì, in tutta la sua lunghezza sono 300 euro. Come 300 euro? E perché? Oh, nuovo salario. Ah. Ho detto, gli faccio, dico, ma che fai, batti Cassia? E lei mi fa, oh, e questi sono prati fiscali, oh. Ma che fai, e marchette, facci i marconi, mica campo dei fiori. Ma so bravetta, eh? Tu sei il primo. E poi chi c'è? Poi c'è Furio, Camillo... E Gregorio VII. Questi sono talenti, oh. Belle arti. Ammazza che serpentaranzeno che c'aveva. E come potevo sapere? Mica so Colombo. Manco un bacio sul labbaro mi ha dato. Mi ha dato una cinquina. Altro che ragazza corviale. A sto punto porta Metronia, porta via, porta chi te pare. Però... Che pelle liscia, gli dissi, oh. Parioli. Questa per scriverla ci ho messo un mese. Su Parioli non sapevo dove metterlo. Che non mi piace. Sono scivolato, ho sbattuto il Monte Sacro. Te credo, mi sono fatta 7 bagni. Ah. Io che ardatino d'amore e credevo che fossimo due cuori e una capannelle. Sono rimasto con una spinaceto nel cuore. Non so se ho fatto la cosa giustiniana, ma non dimenticherò mai il suo nome intano. Aurelio. Altro che divino amore. Vatta a Fidene, va. Sono tornato a casa e non mi sono fatto una camilluccia subito. Che casilino che ho combinato. Traste vere. Ho preso quella sbagliata, oh. Mi ha messo pure le Cornelia. Ma chi è senza peccato, ricordatevi, scagli la prima pietralata. Grazie. A dopo. Viva i poeti del trullo! Grazie, est, Emanuele De Simone al mandolino, Valerio Mileto alla chitarra, Mirko Cercaroli alla fisarmonica, Luigi Di Marco al clarinetto. Don Giovanni. Ed ecco che te tocca, mette bocca prima che a sta botta lei te sciocca. È ora che te metti in discussione, è ora che fai l'uomo, no, il coglione. Te piace fatte mille scappatelle, dei cinque amici tua con le sorelle, c'è scherzi, sorrisate a crepapelle, ma te le sei scopate pure quelle. Non ti è fregato niente di Angelina, gli sei scappato un giorno di mattina, de corsa, te sei chiuso giù in cantina e te sei fatto pure la cugina. Ma io ci rido sopra, non mi importa, tanto prima o poi ti danno storta. Che pur te fatte l'ultima svertina, poi te ritrovi a spigne e a carrozzina, e te ce voglio vede con un bel pupo, si perdi solo il pelo, caro lupo. Te tocca uscì così, pure in ciabatte, sia a mezzanotte ed è finito il latte. A canna con sti giochi, amico mio, prima che te punisce pure Dio. Una sana relazione te lo insegna, che non si vive solo per la fregna. A fa l'amore è bello, chi lo nega? Ma quando che c'hai moglie all'età tua, o t'accontenti solo della sua, o te riduci a fatte un'altra sega. Tutto il giorno sotto al sole la formica tribolava, le provviste accumulava per l'inverno che arrivava, qualche volta si fermava perché il peso la stremava, riparata da un po' d'ombra e il sudore s'asciugava. Era allora che vedeva la cicala, sua vicina, se ne stava a panza all'aria rinfrescata dalla brina, fino a quando all'imbrunire diventava canterina, banchettava con le amiche dalla sera alla mattina. La formica non dormiva, che era troppa la caciara. Oh cicala, lei pensava, la tua vita sarà amara. Non importa se sei furba o semplicemente ignara, che da una brutta fine solo un mese te separa. Infatti al primo gelo, chi è che bussa alla sua porta? De sicuro è la cicala che mi chiede un po' de scorta. La giustizia fa il suo corso e sto fatto mi conforta. Lei non semina d'estate e d'inverno sarà morta. Ma la cicala era felice come n'era stata mai e gli dice alla formica: qui fa troppo freddo ormai. Stamme bene, amica mia, e non te cacciane guai. Se vediamo fra tre mesi, io sono a Hawaii. C'è stava un papa che sognava scarpe Prada e dopo a gran fumata disse: io am vedi bada tutto d'oro pure il water catenoni stile gangster arruolato Coccio Hitler impazziva appresso a Twitter, ma l'ansia la saliva, invidiava il gran Wojtyla per la fama ancora viva e studiava un'offensiva. Ci ha pensato e ripensato in sette secoli. Non c'è stato nessun papa che ha abdicato. A polacco, t'ho fregato! Con me sul palco Patrizio Maria alla chitarra, che festeggia proprio adesso, in questi minuti, 20 anni fa suonava con il grande Ivan Graziani. E ricordiamo Ivan con un grosso applauso. Grande Patrizio. Para nordico. Caro leghista, c'hai qualche problema? Abbaia, sembri un cane rabbioso. La gabbia in cui vive è tutto un sistema. Sì, che in sabbia e tormenta quello nervoso. Apri a bocca e gli dai fiato. C'hai poco d'esagio e niente d'eroico. Qualsiasi discorso che fai è avvelenato. C'hai l'ansia, sei piccolo e paranoico. Caro leghista, non vai al meridione? Ma te, ma che ne sai? C'è il sole laggiù. Sei troppo frustrato, lo so, c'hai ragione. Pippate meno e scopate più. Ma poi fammi seri, Padania de chi? È un posto che esiste a fatti o a parole? Si trova tra Narnia e a Valle dei Re? Sicuro non hai visto mai un raggio di sole. Roma in passato da civilizzato. Mo la rinneghi con la tua arroganza. Sputi nel piatto andare sempre magnato. Eppure ci torni a riempirti la panza. Gli scorci di Roma so perle per porci. Qualsiasi confronto, mi spiace, lo perdi. Da noi t'assomigliano soltanto gli sorci. Ti faccio vedere, sono grossi e sono verdi. Caro leghista, ma ancora che parli? Te agiti e sbraiti, ma resti un pupazzo. Certi concetti dovresti impararli. La lega e la sega sono movimenti del cazzo. Breve, breve, che c'è Emilio che aspetta. E questo, chi è che fa storia dell'arte qui? Vediamo, storia dell'arte. Tre persone, bene, lo faccio lo stesso. Questo è il quadro della situazione con tutti gli artisti dal 200 a oggi. Vai. Oggi i politici sono tutti Chagall. Nessuno che mantegna le promesse. Sono proprio dei Vermeer. Me fanno schifani. Se preoccupano di salvare i due Miro in India. Te chiedono una Manet e poi te Rubens le Monet. A sto punto è meglio essere Munch. Loro grassi e noi sempre più Magritte. Io non voterò più, no, non voterò, no, no. E i giovani? I giovani che li vedi? Se san ubriacà, poi pisciano nei vasari. O in un fontana. Sti giovani hanno dei modi di parlare, ma dei modigliani che se li correggio e gli dico scandischi bene quando parli, a figura del pollo che la faccio io. Per loro Klimt e Eastwood, Picasso e una Citroën, Pinturicchi e Del Piero, Giorgione e Chinaia, Guttuso giocava nel Milan e il parmigianino si gratta. Raffaello per loro è Carrà, il Perugino in bacio, G8 in incontro tra capi di Stato, Caravaggio è l'inizio di una lettera, con le moto truccate che chiavi a Bruegel, danno de gas, coi capelli Tintoretto, è da lì che se bruciano qualche rotella in testa, è da lì. Se fanno le canne, quando se fanno le canne dicono Michelangelo, buona, arroti. Hanno tutti. Hanno tutti Sky Gauguin. Non sanno rimembrare l'Artemisia di una volta. Sapete che vi dico, regà? Ma va a Fangog. Patrizio Maria, ciao a tutti, grazie. Viva i poeti del Trullo! Più forti, oh! Quando ero un pischielletto, mi ricordo il pomeriggio, la scodella col giacchetto, un sella in siacca grigio, imboccavamo lo stradone con la comitiva appresso. Era l'Eur destinazione e non succedeva spesso. Eravamo spensierati, se divertivamo un monno, pena giostra, fomentati, l'amicizia come sfondo. De sabato l'uscita l'aspettavamo al varco, gioventù ribelle unita che se sfoga dentro un parco. Mi viene in mente il più viziato con lo zucchero filato E invece un altro grande e grosso vo a far c'entra al pesce rosso, er più duro che se impanica sulla ruota panoramica, mentre quelle più discusse erano le montagne russe. Ogni tanto flashback lenti d'episodio che ho rimosso, se ripenso a quei momenti c'ho la pelle d'oca addosso. Grazie a tutte e tutti, e grazie ai poeti del Trullo che non vogliono mai salire sul palco perché loro sono un po' come Pasquino e quindi nessuno li conosce, ma questa sera potrebbero essere vicino a voi, accanto a te, tu non lo sai, magari c'è accanto uno dei poeti che ha scritto tutte queste belle poesie. Ringrazio tutti gli altri attori, l'organizzazione e soprattutto un grazie ad Astra e Puzzle che ci hanno regalato la vera estate romana strappata dal basso. Grazie a tutti.